pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9. Questa è Radio Onda Rossa. E come te sbagli, come ogni giovedì pomeriggio in tall'aria, questa è Attica Blues. E oggi ci focalizzeremo su una puntata sui Grammy, sulle nomination dei Grammy, vero Luque? Eh sì, settimana scorsa infatti sono uscite tutte le nomination della 63esima edizione dei Grammy Awards, che si terrà il 31 gennaio, sempre sulla CBS a Los Angeles. E allora, le 9 candidature fanno di Beyoncé l'artista donna con più nomination nella storia dei Grammy, pensate, 79 finora, al pari di Paul McCartney per il secondo posto, dietro Jay-Z, che quest'anno ha ottenuto 3 chance di vittoria, e Quincy Jones, entrambi candidati 80 volte ai Grammy Awards. Diciamo subito che non ci saranno disconi o gran pezzi che rimarranno nella storia, ma comunque nelle varie categorie qualcosa siamo riusciti a trovare, qualche bella chicca. Allora cominciamo subito con il reggae, cominciamo da un artista che abbiamo abbondantemente suonato nelle ultime puntate, sto parlando di Toots and the Maytals, questa la sua Warning Warning. Candidato per l'album Go to Be Tough, uscito nell'agosto di quest'anno, e poi Toots Hilbert ci ha lasciato invece nel mese di settembre. Let these MC counteract the dirty principles that you possess, and be respectful so that everyone can see. Why won't you utilize your brain in the right way that you should? That you'll be doomed next to your tomb. Yeah. I'm giving you a warning. Don't take it for granted. No. Yes, I'm giving you a warning. Warning. Please don't take it for granted. No. The way you're moving now, that's not the way a friend to move. Oh, if you don't change, would assume that you'll be doomed next to your tomb. Candidati ai Grammy Awards del 2021, gli album devono avere almeno il 51% di brani nuovi. E noi continuiamo ancora con la categoria migliori album reggae usciti nel 2020. Eh sì, passiamo a un altro artista che ha fatto la storia sin dagli anni 80, sto parlando di Maxi Priest. E tra l'altro ci sarà in combination Shaggy, che sentiremo, non ci sta nessuna nomination sua, ma sentiremo anche in combination in un altro brano. Questa è My Pillow. Mama's approved. Yeah. Where you Girl, you're smiling, your eyes such a pleasure to talk to. Girl, you're so damn fine. Happy that you're mine. So excited to see you. You got my hook from your walkthrough. Baby girl, you blow my mind. Happy that you're mine. Oh, I'm so blessed to have you share my pillow. My pillow. Oh, you and me, girl, we go where the wind blows. Where the wind blows. Baby girl, you bring me happiness. Since I've been with you, I've been the happiest. Girl, I can't describe the feeling. It's like you give me life new meaning. I can't believe how fast this is happening. Been a couple months and girl is baffling. I don't need no explanation. This I love now have no expiration. Oh, I'm so blessed to have you share my pillow. My pillow. Adesso proseguiamo con Skip Marley e qui siamo arrivati già alla terza generazione della famiglia Marley, lui che è un nipote da parte materna del grande Bob Marley, nato nel 1996. Tra l'altro con questo lui è candidato con questo suo Either Place come miglior album reggae, ma anche come miglior canzone R&B con questa sua Slow Down in compagnia della cantante R. Slow down. Girl, let me love you. Darling, I care for you more than my own self. Darling, I share with you all goodness and well. Said we could have just one night, or we can have one whole life if we play it cool. Yeah. We can have that one thing, or we can have everything if our hearts are true. Girl, slow down. Girl, let me love you. Darling, slow down. Let me get to know. Just looking in your eyes, you know I'm looking for more. And you're what I've been praying for. This kind of love don't come around like this. I'm not one to play around like this. It's so real, and I love how it feels. I love it when we slowly sway. I love it when we think the same thing. I love the way we move. The way we move, yeah. We can have concludiamo la sezione dedicata ai migliori album reggae con un brano degli Wailers che vede numerosi cantanti a partecipare. Ci stanno madre e figlia, Sedella Marley e di nuovo Skip Marley, c'è Farruko e c'è, come avevo annunciato prima, Shaggy. L'album si chiama One World e noi suoniamo la title track, One World, One Prayer. It's the Wailers. Shaggy. Said I said, minute, give me some love. Hey. One word, one prayer. It doesn't matter what you believe. Some things have to change. One word, one prayer. One prayer. Give me some love. Forget about the hate. When you wake up, you look. Look yourself in the mirror. Doesn't matter who are you or where you come from. Man or woman, no worry, no fear. Full of surprises. Life can change in a minute. Today. Give a kiss to the one that you love. Cause the world turns one way, just one way. Why people see what they wanna see? Why people hear what they wanna hear? Why people feel what they wanna feel? The blue sky covers us like a single skin. Why people see what they wanna see? Why people hear what they wanna hear? Why people feel what they wanna feel? The blue sky covers us like a skin. One way. Now me say, tell me how you looking. It's just thanks for we give. Doesn't matter what you believe. Some things have to change. One way. We gotta change our way. Solo corazón, grabando al mundo unido una sola nación. Aunque no importa la raza, tampoco el color. Levántame la mano que vive el amor. De Puerto Rico a Miami, de Jamaica hasta Cuba. Enciende la pipa y la pata, le menea la cintura. Que este reggae tropical te suba la temperatura. No coja lucha con nadie y nunca pierda la cordura. Porque la gente siempre va a hablar. Y no te dejen llevar nunca del que dirá. Porque nunca vas a quedar bien con todo el mundo. Aprovecha que la vida calienta solo segundos. Porque la gente siempre va a hablar. No te dejen llevar nunca del que dirá. Porque cuando te muera nada te va a llevar. Solo te queda disfrutar y la vida gozar. Un solo corazón. Finito il reggae, cambiamo categoria, andiamo nella Best Global Music Album. Cominciamo con la Dapton, con gli Antibalas, vero Luque? Sì, sì, un gruppo storico, un gruppo che poi ha ripreso più di ogni altro in America l'eredità di Fela Kuti e del suo Afrobeat. Per questo Fu Chronicles è uscito il 7 febbraio del 2020. Gli Antibalas si presentano una formazione larghissima, sono 16 musicisti e ben 7 coristi. Noi abbiamo scelto un brano appunto che tratto da quest'album, questa è Lai Lai. Lai Lai in Yoruba is never or forever. But Lai in Hausa is a promise and a pact. I find my hand in the dome of your back. Means we are one. Children of King. Then, Wallahi, of your your back. Well, I lie, well, I lie, la lie, la lie. Ha! I'm enough. Your best sweet mother. If I succeed in America, I would buy a big, big land. And I'll act like his mother. Well, I promise I lie, you. I lie not forever. I lie, Papi, mago, mago. I lie, I call the light, lie. I lie, that's a wuru-wuru. But like my armies, I lie, lying like that forever. I lie, but be you, my go, my go. I lie, I go, my lie. I lie, that's a wuru-wuru. I lie, but like my armies, I lie, lying like that forever. I lie, but be you, my go, my go. Let's take this fight, the hunger and poverty, oh. And miseducation is bringing an epidemic. The others boiling too quick. Yeah. Well, I ain't a promise. I lie. Lying like now forever. I lie. But be mago mago. I cover my line. I lie. Not in a wuru wuru. I lie. But like a promise. I lie. Lying like now forever. I lie. But be mago mago. I cover my line. I lie. Nuts, I woulda woulda woulda. I'm the armies, I'm like now forever. My biggie, my go, my go. I go for my life. Nuts, I woulda woulda woulda. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Rimaniamo nella stessa categoria e passiamo ai Tinariwen, un gruppo che noi abbiamo visto insieme un bel concerto quando ancora ci stavano i concerti. Erano particolarmente simpatici, tutti col turbante, coi visi coperti, insomma una bella emozione. Era il 2018, sì, a Villada, un concerto estivo davvero davvero bello per questo gruppo Tuareg del Mali, che riprende poi la tradizione africana e soprattutto il desert blues. Per quest'album uscito per la Records dal titolo A Manjar, noi ci ascoltiamo Manjar Yashuf in Jan, in un album anche ricco di ospiti. ما هي دغية سوفيجان دغمان دلهين أرغان ما هي دغية سوفيجان دغمان دلهين أرغان ما هي دغية سوفيجان دغمان النيق يشوش اللهين زهوق لا تدزو النقي مرغيق لا تدزو النقي مرغيق categoria, passiamo al miglior brano R&B, lui è Robert Glasper, tra l'altro troviamo di nuovo un featuring, e di nuovo un featuring con R, che già avevamo trovato insieme a Skip Marley. Già avevamo trovato ed è tra l'altro candidata anche nella stessa categoria con il brano insieme a Skip Marley, Slow Down. Noi invece ci ascoltiamo Better Than I Imagine di Robert Glasper, il pianista di casa alla Blue Note, in compagnia appunto di R, ma anche di una grandissima cantante e bassista, Michelle di Sioncelo. I've been thinking about magic, happen, action, baby, we never lasted. Magic, madness, maybe you was just guessing. Thought it was better than I imagined. Drastic, acting to you, we was just practice. Sadness, masking, hated you with a passion. Had it, granted, baby, I didn't cap it. Cause it was better than I imagined. Thought it'd be worse, cause it hurts me, but still I can't see myself with no one else. Cause it was better than I imagined. Love me, know I could never make you stay true. Hate to say it, but it's too late. My expectations still low, you can't relate to. Baby, but I don't blame you, baby. You were the one I always escaped to. Stay to a place, or maybe I'm just afraid to call you. Need you to tell me if it's okay too. Is it okay? I thought it'd be worse, cause it hurts me, but still I can't see myself with no one else. Cause it was better than I imagined. Scrambled to get a flight, I lost my phone, and I'm calling you from the hotel phone. I couldn't get a flight back to the States. I realize you're the only number I know by heart. Last time I was here, we were together, remember? I tried to tell you how I felt, and you stopped me. And you said, don't ruin it, cause this is better than I could have ever imagined. I hope you're okay staying inside. I hope you're not lonely. And I'll call again, maybe you'll answer. This is better than I could have ever imagined. Questa edizione dei Grammy Awards sono stati più di 11.000 i membri votanti dell'Accademia, fra professionisti della musica di tutti i generi e discipline, inclusi musicisti, cantautori, produttori e ingegneri del suono. Un totale di 23.207 voci sono state presentate per la valutazione dei Grammy, stabilendo tra l'altro anche il record per il maggior numero di voci in un solo anno. Allora, noi cambiamo genere, parliamo di Christian Scott, il trombettista di New Orleans, classe 1983, che è candidato per due categorie, quella come miglior album strumentale contemporaneo e come anche improvvisazione e assolo in un brano. E noi ci ascoltiamo proprio il brano come miglior assolo, questo è Guinevere, tratto da un album live Axiom uscito lo scorso 28 agosto. Cambiamo ancora categoria e passiamo al Best Latin Jazz Album con un grandissimo pianista dell'Havana, lui è Gonzalo Rubalcaba, che qua incontra una cantante, anche lei cubana, ahimè Nuviola. L'album si intitola Viento e Tiempo ed è un live registrato al Blue Note di Tokyo. E da questo bellissimo concerto noi abbiamo scelto El Manisero. Cerita, no te acuestes a dormir si comete un cucurrucho de maní. Maní, maní, mami, maní. Maní, maní, maní, maní, maní, maní, maní, maní. Si te quieres por el pico divertir, cómprame un cucurruchito de maní. Qué calentico y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Dame de tu maní, bien calentico pa' mí. Ay, yo esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurrucho de maní. Cuando la calle sola está, la acera de mi corazón. Llama desde su balcón. Ay, dame de tu maní, maní, maní, maní, maní. Que yo lo quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí. Caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurrucho de maní. Oye, me voy. Se va. Me voy. Se va. Caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurrucho de maní. Que se va el manicero, caballero. Yo Cambiamo ancora categoria e passiamo a quella del miglior album jazz. E iniziamo con Chick Corea, che qui è in compagnia anche del contrabbassista Christian McBride e del batterista Brian Blade. Una formazione in realtà che è insieme da parecchio tempo. Il primo disco di questo Triology uscì nel 2013 e l'album ha vinto anche 2 Grammy Awards. E così loro sono arrivati a questo Trilogy 2, che vede ancora dei concerti live registrati a Ottawa, Bologna, Zurigo e St. Louis. Noi abbiamo scelto questa All Blues, che è anche candidata alla categoria come miglior assolo improvvisato jazz. Brano scritto da Miles Davis e incluso in quel Kind of Blue del 1959. Thank you. Christian McBride e Brian Blade sono anche la ritmica di un altro album candidato come miglior album strumentale jazz. Parliamo di Round Again del sassofonista Joshua Redman, e completato questo quartetto anche dal pianista Brad Meldau. Allora, abbiamo scelto il brano Moe Honk, candidato anche come miglior assolo per Joshua Redman. Sintonizzando solamente adesso, più in generale, se volete riascoltare questa come una delle tante altre puntate, che poi sono sempre monografiche, di Attica Blues, le trovate il podcast sul meraviglioso sito della radio www.ondarossa.info. Trovarci è facile, andate su Palinsesto, giovedì pomeriggio trovate Attica Blues, vi si apre la pagina dove ci sono i vari podcast, ognuno correlato da una scaletta, da una breve descrizione, da una foto che rappresenta la puntata. E vi ricordiamo anche le nostre pagine social, ci trovate su Facebook, su Twitter, su Instagram e anche su Spotify, dove c'è una ricchissima playlist di musica nera che più rappresenta la nostra trasmissione. In tutti i casi basta cercare Attica Blues e ci troverete facilmente. Vi ricordiamo inoltre che è uscita la nuova Scarceranda, quindi siete in tempo per prenderla, l'agenda sempre corredata dal quadernino, poi la trovate alle iniziative della radio, anche se non è facilissimo farle, ma qualcuna già ce n'è stata e qualcuna ancora ce ne sarà, oppure potete venire qua a Via dei Volci a prenderla direttamente in sede in radio. Noi vi salutiamo, vi rimandiamo a giovedì prossimo e vi ricordiamo che faremo le due puntate, una il giorno di Natale e una il giorno di Capodanno. Noi ci saremo, vi terremo compagnia, saranno due puntatoni ovviamente, quindi che dire, buon ascolto. Le vigilie, in realtà le vigilie sarà il 24 e il 31, e invece giovedì prossimo parleremo di una vera icona del jazz, soprattutto del cool jazz, e celebreremo un importante centenario. Infatti il 6 dicembre del 1920 è nato il pianista Dave Brubeck e noi lo omaggeremo alla grande. Quindi ci sentiamo giovedì prossimo sempre su queste frequenze, 87.9 Radio Onda Rossa, sempre dalle 4 alle 5 e sempre Attica Blues.